Ciao a tu che ascolti Radio Big World, e anche per oggi parleremo di qualcosa che vorrei fosse argomento di discussione e come minimo nella mia testa c'è che sia argomento di stimolo a ripensare le cose di tutti i giorni. Io so che quando noi trattiamo bene il nostro corpo e la nostra mente è chiara, allora noi facciamo una vita di buona qualità. È evidente e innegabile che ogni essere umano è composto dal corpo fisico, facilmente riconoscibile perché di materia densa, e dalla mente, composta da materia sottile o spirito. Nel linguaggio comune si dice infatti che la persona è fatta di corpo e di anima. Per concretizzare cos'è il corpo, la cosa è molto facile perché basta pensare a quando ascoltiamo i nostri sensi e capiamo che mi prude il capo, è il corpo, mi duole una mano, mi sento lo stomaco pesante, con quest'aria umida si respira in affanno. Ovviamente sono tutte sensazioni del corpo. Meno facile è concretizzare cos'è la mente, perché la mente non si percepisce con i sensi, col tatto, col gusto, con l'odorato, ma si può percepire con l'autocoscienza. La mente sicuramente non sono i neuroni del cervello, perché i neuroni hanno un compito fisico, cioè di trasmettere energia elettrica ad altri neuroni e iniziare e continuare una catena di trasmissioni di energia elettrica. Quindi i neuroni non sono la mente. Ma neppure l'energia elettrica è la mente. Altrimenti pensate ai tralicci dell'alta tensione che, contrariamente all'esperienza, dovrebbero essere estremamente pensanti e non lo sono. Tutti i grandi pensatori hanno affermato idee molto diverse su questa parte spirituale di noi e tutti i grandi pensatori erano quasi certi che la loro concezione della mente era quella giusta e che la concezione della mente presentata dagli altri pensatori era un'idea sbagliata. Ma noi oggi non vogliamo disquisire su questo argomento della mente. A noi basta pensare, percepire che noi stessi non siamo costituiti solo di materia grossolana del corpo, ma siamo fatti anche di una materia più sottile che si può chiamare spirito, mente, pensiero, anima, come vogliamo. Oggi chi in presenza di un disturbo di salute cura solo una parte del corpo è rimasto indietro. Chi invece ha un dolore allo stomaco e cura tutta la sua persona per guarire da quel dolore si dice che è un seguace dell'olismo, cioè un olista. Chi per un dolore al fegato cura tutta la persona e anche la psiche, si dice che è al passo con i tempi. Per parlare del nostro corpo e della unità tra le strutture del nostro corpo e successivamente in analogia l'unità tra le strutture del corpo e la mente, mi piace ricordare Menenio Agrippa, di cui tutti si è sentito parlare. Era un senatore romano del 500 avanti Cristo e quando la plebe ruppe con lo Stato, i plebei si ribellarono ai patrizi, I plebei si ritirarono sull'Aventino per protestare e l'unico tra i politici della città di Roma a risolvere il problema ricucendo lo strappo sociale con una metafora da lui pensata fu Menenio Agrippa, che ragionò così con i plebei riuniti sull'Aventino. «Voi», disse Agrippa ai plebei, «siete le braccia, lo Stato è lo stomaco. Se le braccia si sentono sfruttate e smettono di lavorare, lo stomaco non riceve più cibo e muore. Ma se lo stomaco muore, smette di fornire nutrimento a tutto il corpo e allora l'intero corpo, braccia comprese, muore per mancanza di nutrimento». I plebei capirono che il corpo sociale, come il corpo umano, ha organi differenti e interconnessi. Per mantenere ogni corpo in vita, non si può curare solo le braccia o solo lo stomaco, ma bisogna essere olistici, cioè totali, comprendendo che tutti gli organi del corpo, sia di quello sociale che di quello fisico, sono collegati e interdipendenti. Ma a noi oggi interessa osservare come corpo e mente siano collegati e come la malattia del corpo colpisca anche la mente e reciprocamente, come la malattia della mente generi e sostenga le malattie del corpo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha definito la salute come uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo uno stato di assenza di malattia o infermità. Questo significa che il collegamento tra corpo e mente esiste, altrimenti l'OMS avrebbe distinto, definendo la salute, parlando di salute fisica e di salute mentale. Invece ha messo tutto assieme, perché corpo e mente sono un tutt'uno. Guardando nella storia recente si può ricordare come Freud, che è stato l'inventore della psicanalisi, guarì con l'ipnosi alcune persone affette da paralisi. E negli anni 50 del secolo scorso lo psicanalista Alexander sperimentò che le ulcere sono legate negli adulti a conflitti mentali non superati nell'infanzia. L'asma è causata da conflitti di separazione, cioè da distacco dalla propria madre o da altre figure affettive, e facendo galleggiare l'origine di questi disturbi, sperimentò che si guariva sia dalle ulcere che dall'asma che da altre malattie. Questo significa che psiche e corpo sono strettamente legati. Vi voglio fare ancora un altro esempio. Tutti sappiamo come da tempo nella clinica chirurgica, invece di seguire la tecnica della anestesia fisiologica, cioè prodotta attraverso sostanze chimiche introdotte nel corpo, si utilizza l'anestesia ipnotica, che vuol dire togliere la sensibilità a una determinata parte del corpo senza utilizzare prodotti chimici di derivazione naturale oppure artificiale. Quindi, condizionando unicamente la mente con l'ipnosi, si riesce a togliere per un periodo limitato la sensibilità su un braccio su cui, ad esempio, deve intervenire il chirurgo. Questo qui credo è un esempio inconfutabile di come il pensiero, l'anima, la psiche, diciamo come vogliamo, influisce sul nostro corpo fisico. Allora, tiriamo un po' le nostre conclusioni. Tutte queste parole, queste riflessioni, queste espressioni di pensiero, a cosa ci servono oggi a noi? Ci servono perché per il nostro benessere bisogna autoconvincersi che la mente è così importante per superare le malattie come lo sono le medicine ordinate dal medico o l'intervento del chirurgo quando si infiamma l'appendicite. Se hai sentito parlare della visualizzazione creativa, hai già compreso come si può condizionare positivamente in corpo. Se invece non sai niente di questa tecnica, te la racconto velocemente e la comprenderai subito perché è molto semplice. Non riuscirai ad applicarla immediatamente perché, come gli atleti prima di raggiungere il loro punto massimo devono fare tanto allenamento e tanto attenzione a quello che fanno, così ogni persona umana per raggiungere uno scopo ha bisogno di fare un percorso, ma poi se il percorso che fa è quello giusto sicuramente arriva alla meta. Allora, cosa vuol dire visualizzare? Semplicemente vuol dire vedere ad occhi chiusi. Provate. Chiudete gli occhi e immaginate il sole che illumina e riscalda tutto il tuo corpo. Che illumina e riscalda tutti gli angoli più nascosti del tuo corpo. Che senti il calore e il piacere di questa luce che invade il tuo corpo. Continua a fare questa esperienza tutti i giorni, la sera quando vai a letto e stai per addormentarti. Visualizza questo sole che fa quelle cose che noi dicevamo. È semplice perché è naturale questa cosa. Poi potrai visualizzare l'energia dell'universo in cui tutti siamo immersi, che aiuta il tuo corpo a vivere meglio. Poi potrai visualizzare le carezze e il conforto della tua amante che ti coccola. Poi potrai visualizzare la rabbia che esce dalla tua bocca in forma di un liquido opaco e oscuro. Poi sviluppa quel pensiero sul tuo lavoro che secondo te potrebbe migliorare la qualità del tuo lavoro. Prova e vedrai com'è facile mettere il tuo corpo a suo agio attraverso il pensiero. Le cose vere sono sempre facili. Sono facili da capire, ma ci vuole un po' di allenamento e di fatica per attivarle. Allora, buon lavoro, ti saluto. Se vuoi, risentiamoci su questa radio Big World. Se ti fa piacere, contatta Radio Big World per esprimere il tuo pensiero sull'argomento di oggi. Ti saluto, ciao ciao.